Buongiorno. Sempre il number one qua, facendo prove. Oh, carissimo, ma sei già su? Come? Non ho capito. Sei già su? Sei già su, cosa vuol dire? Sopra le stelle? Su in mansarda? Sì, arrivi bello forte, qua giù. 8 metri e 50 di cavo. Vabbè, la sambla tanto è vuota, quindi sicuramente rimbomba parecchio. E c'ho anche la porta aperta, se la chiudo. Se la chiudo si sente moltissimo. Buonasera, ben sentito. La lascio così o la devo ancora abbassare? Alcino. Come? Vabbè, qua abbassa, tu sì. Ah. Ma Claudio sì. Ho capito, abbassa tu che non ti capisco. È fantastico, la abbassa, aspetta. Cosa abbasso, dimmi, sei alto tu, Claudio, che non la devo far schifo, eh. Mentre come l'hai regolata negli ultimi passaggi era già più dolce e piacevole da sentire, perché comunque la tua timbrica rimane, capito? Però gli stava dando almeno un po' di medi. Non capisco, capito. Vabbè. Aspetta un attimino che sto facendo un'altra regolazione. Allora, vediamo un pochino, menu, eccolo qua, disinseriamo l'equalizzatore, questo è il gemello della tua, ho salvato, ho sbagliato, questo è 950, non è 850. Questo è lo IAESO, l'effetti 950, digitale con l'MC80. Allora, menu, disinseriamo questo, no, non disinseriamo questo, disinseriamo questo, eccolo qua. Disinserendo questo dobbiamo dare appena di, eccolo qua, equalizzazione che è guardato un attimo dove, prima di toccare l'equalizzatore, dove la radio ne ha acquistato in medi. Perché sono sceso come tonalità media. Allora, questi sono i medi. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, questi sono gli alti, che non mi piacciono. Allora, li mettiamo così. Vediamo gli acuti, che sono questi. Eccoli qua. Allora, questi sono gli acuti. E cos'è che cambia? Non ho capito, non riesco a capire. Ok, adesso che cosa li hai sollevati? Sì, ho sollevato gli acuti, perché avevo solo i medi bassi, menu 30, menu 20, menu 10, eccolo qua. Allora, così abbiamo equalizzatore al 20%, con tonalità medio-alta al 30%. Cazzo, le radio è un casino, sta iniziando a conoscerla, se la torcia un menù allucinante. Io nemmeno l'avevo mai provata, questa è la prima volta forse che sto facendo le prove tecniche, veramente. Sto provando tutti i microfoni, su questo è l'80, gli ho provato anche il 60, l'MD100 che è il suo, quello della Yaesu, però questo spinge parecchio, eh? Assolutamente sì. Ciao Luca, per prima non ti ho neanche salutato, andiamo bene proprio. Secondo me questo è già un buon setup, non è troppo cavernosa, e d'altronde questa è la tua tonalità, non è che te la possa eliminare, però l'hai arricchita di medio alti ed è più piacevole da ascoltare. Sono la tonalità giusta. Ciao carissimo. Diversamente non puoi fare, perché altrimenti diventerebbe troppo acuta. Anzi, io abbasserei ancora di 5 l'equalizzazione e la metterei così, guarda, Salvatore. Secondo me è meglio così, guarda. Così non è né troppo alta né troppo bassa, perché altrimenti equalizza troppo tonalità medio-alta. Luca, ci sei? Sì, lo stavo salutando a Salvatore. Beh, il computer è a posto. Sì. Gli ho fatto l'indomani, come mi hai detto tu, per non farlo subito. Ho fatto la pulizia del disco, la diffamazione. Perfetto, adesso. È una scheggia, appena la accendi subito ti dà la disponibilità dell'antivirus, mentre prima Guido era lento, mentre un gazzo. E quindi niente. E adesso va bene, dai. Ottimo. Va bene, poi che lo sai quando. Tanto non lo tocca nessuno sul computer, più che tu non lo manufri, quindi non ti preoccupare. Se c'è qualche problema ti chiamo, ti do il team e ti arrangi. No, ascolta, ricordati sempre, quando tu lo accendi, devi controllare che l'antivirus sia aggiornato, solo di questo l'aggiornamento, che deve essere sempre il verde. Sì, appena lo accendo lo lascio stare un paio di minuti. Inizialmente appare la croce, no? Rossa, e poi appare quella, la spunta verde. Vado a vedere, apro e mi dà aggiornamento completato, tutto a posto. E più o meno come l'altro, se non era verde non lo facevo, non lo usavo, capito? Sì, ok, dai, adesso entro un attimo che faccio una cosettina, mi torno tra un po'. Beh, questo parametro me lo lascio così o devo ancora sistemare qualcosa? No, se vuoi va benissimo, a me va bene, sono prima la troppo alta, diciamo che può andare, però non mi piace la tettimbrica, è pulita, tutto quello che non mi piace. C'è troppi medio alti, no? Non è proprio un'innovazione, non faceva la tua voce, non lo so. benissimo. Se tu cambi il radio, quando le fai andare, però non si applica proprio. Queste sono digitali, questo è un effettino 250, non è che è già troppo che sta andando una M, capito? È un digitale, no, non puoi fare diversamente, sto lavorando col menu, ma più di questo non è che puoi regolare. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, Lugarie. Salvato, quindi... A Luca non le piace, a te come va? Per me è perfetto, Considera che ho tolto tutti i filtri di qualsiasi dispositivo per sentire proprio l'uscita normale. E secondo me è perfetta, c'ha una bella corposità, è profonda, e c'ha tutte quante le gambe, e non è stridula, va benissimo. Secondo me è, però, chiaramente. Ah, ok, e allora lasciamo fare così. C'è qualcuno altro sul canale 10 che vuole entrare avanti? Dai, dai, buonasera a tutti. Aspetta, andiamo dai, questo è di ragazzo, non so, vai a chi incontrare. Se non veniva la porta proprio così. Non ho capito niente, Randy, cosa hai detto? Voglio un controllo del radio, si è impattato, non riesco a capire cosa stai dicendo. Vuoi un segnale del radio o di che cosa? Non ho capito. Di radio, solo la radio mi interessa. Buonasera a tutti, anche agli altri. Questo è, se riesci a sentire. Sto provando una radio, però c'è lineare attaccato, quindi di potenza non mi interessa. Segnale attaccato, non me ne sono accorto, segnale 9, la radio è 5. Io sto provando l'effettino 950 con l'MC80, con l'adattatore. Va bene come timbrica o c'è qualcosa che non va secondo te? No, ho capito, Vanni, è così tutto impastato. Vannino, Vannino la sorsa. Sì, sei sato, Vanni, abbassa leggermente. Chiara, ripeto, sente neanche un filtro attivato, eh? No, neanche io ho i filtri attivati, va bene, ricezione sì, ma trasmissione no, posso attivarle anche trasmissione, sai che si possono attivare anche trasmissione filtri su voi e ISO, anche su quello che hai tu, però io sono in noi. La modulazione la sento molto forte, molto chiara, presente, ha delle tonalità molto acute rispetto all'MD100, però non so, provare l'MC60, vedere un po', ma mi sembra che questo spino un po' di più. Prego. registrato il break. Guarda, secondo me sei anche già al limite della spinta, perché forse provare ad andare anche un po' più oltre forse inizia ad essere fastidiosa, perché è una cannonata, di più non so che cosa possa ottenere. È bella, corposa, c'è tutto, che vuoi di più? Ok, adesso possiamo passare il break. Vabbè, per te, perché stai ricevendo con un apparato simile a questo, se non uguale, però per chi riceve con i baracchini, bisogna vedere. Avanti il break. Ma va ben sentito da questa parte, Antonio. Non ho capito. Ma ben sentiti da questa parte, Antonio, il grotte. Guarda, io fra un po' non ti rispondo più a te. Stacca, cazzo, sei tutto sacro qua, cazzo. Boh. Perché siamo vicini qua. Come stai uscendo, Salvatore? Beh, tanto c'hai un segnalone. Sei a E55. Ancora sei al limite della saturazione da questa parte, però il passaggio è chiaro, è proprio al limite, chiaro Antoine? Senti, ma allora devo essere saturo di radio, guarda un po'. Fai un passaggio un po' più lungo, così apprezziamo in due. 1, 2, 3, prova, guarda un attimino come sto uscendo adesso, posso abbassare ancora di più. 1, 2, 3, prova. Forse questa è forse ottimale. Prova un altro peluzzo in meno. Ancora in meno, 1, 2, 3, prova, adesso ho passato di... sono a 3/4 del Mickey Gain. È già buona da questa parte. Non so rispetto a Claudio che è più vicino a te. No, io devo togliere tutti i filtri, devo disinserire nel bimbo, no, vabbè, ognuno fa quello che vuole, altrimenti non serve a niente stare con 100 watt a 100 metri di distanza. No, non ti capisco, tu no, devo attenuarti, cazzo, per capirti, no, non so. Ma a parte che non sono 100, magari ero da 600, mi sta dando appena 50. Io non ho appena 50, cosa vuoi dire che ti dica per... cosa devo dire, che c'è un disaccordo, che c'è... Boh, non lo so, io non ti sento bene. C'hai quella poca radio che si sente come attacchi te la disintegra, cioè te la mangia qua, no, non lo so, boh. Se colpa mia, se non so cosa dire, ti capisco malapena, guarda. Vediamo un attimino, uguale distanza. Luca, guarda un attimino come sto arrivando. Da. Sta facendo roba al computer. Cioè io sto uscendo con forse 15. Forse 10, esattamente, c'ha cioè, il picco è a 20. Sì, stai parlando di me. Guarda, ecco anch'io sta così, guarda, adesso sono a 20 watt, sto usando questo effettivo 50, sto facendo le prove, poi passo col baracchino, ecco anch'io sta così. Naturalmente da 0 a 100 d'ingresso, quindi roba professionale. riuscire, come dici tu, a distanza di 200-300 metri, in linea d'aria, sto parlando, con 50 watt, io tanto con 500, ti faccio vedere che non esco come stai dicendo tu, non ti capisco, non... devo togliere Salvatore dal 950, devo disinserire Nippo, devo disinserire l'NB e devo mettere il filtro stretto per poterlo capire, altrimenti non capisco un cacchio. Sì, aspetta un attimino. No, allora mi hai fatto acquistare una cosa che non serve. Ma che non serve non credo, perché se lo porti qua ti faccio vedere che io ce l'ho uguale con il linearetto, capito? L'ho staccato, perché per il momento l'ho staccato, però sto dicendo, io tutte le volte lo attacco nessuno si accorge che l'ho attaccato, quindi qualcosa c'è che non va. Cosa ti devo dire? Queste sono cose tue. Non so come lo stai usando, con cosa lo stai usando, con quali spezzoni, con quali lunghezze, con quali... non so niente, quindi cosa ti posso rispondere? Non lo so. Io so solo che ogni volta che ti sento devo fare difficoltà a ascoltarti. Segnalone alla grande, sei fondo scala qua con l'FT950, sei 9P50, ma non è quello il problema, capito? Non interessa il segnale in questo locale, interessa la modulazione, quindi io di modulazione devo fare miracoli per poterti ascoltare, perché sei completamente distrutto. Aspetta un attimo che cambio microfono, Aldo. Appa, io se mi scusate ne approfitto che torno a operare, un impianto elettrico a metà nel garage, lo devo assolutamente finire oggi in modo tale che domani, se non piove, riesco a dedicarmi a sistemare l'antenna, l'HFSU, e finalmente ho completato il lavoro iniziato oramai diverse settimane fa. Ci sentiamo più tardi nel caso, signori, grazie della chiacchierata, ciao Clara, un abbraccio, ciao Antonio, un abbraccio, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, io vado a finirmi l'impianto. Perché stai urlando? Aspetta un altro secondo. Guarda, con 20 watt, con 20 watt, sono sopra, è mansarda adesso, con 20 watt, 8 metri, neanche 10 metri di cavo. Se il segnale è stabile a quello che avevo prima o se è più alto, Salvatore? Allora, quello di prima, uguale. Precisa identico, beh, quindi le cazzate che sento con tutta la mia poca esperienza sono sempre cazzate. Da 10 metri a 30 metri non cambia assolutamente niente, il tuo segnale è uguale. Non ho nessuna dispersione né in ingresso né in uscita col capo, quindi stronzate sotto stronzate, quando il capo è buono secondo me non c'è niente da fare, da 10 a 30 non cambia assolutamente niente, va bene, non ti trattengo, ciao sabato, a presto, grazie del controllo, vai, sto usando solo questa radio, l'ho portata su con l'alimentatore e praticamente ho l'antenna diretta sotto tetto, diciamo, per fare una prova così, giusto per capire qual era il problema, ma problema non ce n'è. Va bene, ciao, presto, grazie. Però aspetta, se tu mi stai dicendo se c'è una differenza rispetto a quando trasmettivi in casa, quello tu mi stavi chiedendo, o era la differenza negli ultimi passaggi? No, la differenza di trasmissione, da quando trasmetto giù a quando trasmetto su. Adesso io sono su, con 25 metri di cavo in meno, diretto, volevo capire se il segnale era uguale a quello di giù o se c'era differenza, tutto qua. Assolutamente il segnale è diverso, no Claudio, aspetta, il segnale è diverso, perché oggi tu vai con portante muta ai 35 e arrivi senza alcuno sforzo a più 40, mentre quando segnavo con chiaramente la, prendiamola tra, con le pinze, con il 4,40 tu eri 30. Eri un portante muteri esattamente un pelo sotto i 9,30, un pelo, e arrivavi ai 35 con la modulazione. Qui parti dai 35 muta e arrivi ai 40 con la modulazione. Ho capito, con vinti matti, quindi c'è la differenza, ho capito. Volevo sapere questo perché ho approcciato di 25 metri il cavo, quindi sono sotto antenna, sotto tetto, diciamo, 10 metri neanche di cavo. Va bene, ok, allora ci siamo, va bene, quindi con tutta la stazione al completo, con i guatte lì a disposizione, abbiamo un fondo scarapieno sicuramente lì da te. Va bene, d'accordo. Grazie Salvatore, non ti trattengo, avanti Grotte. Assolutamente, grazie a voi, ciao, buon proseguimento ragazzi, vado a lavorare. Ciao Salvatore, a presto.